Ma per me questa vittoria è veramente il coronamento di un sogno di una vita, e quindi che si realizza, e forse ancora io nemmeno riesco a immaginare tutto ciò, ecco. Lei può convincere una moglie con i soldi a rimanere, ma se quella moglie ha deciso di scopare con qualcun altro, scopa con qualcun altro. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantanide, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Questo è un momento della stagione in cui se ne sentono di tutti i colori. Ovviamente c'è ancora lo sport giocato, ci sono ancora gli sport dei motori, ci sono ancora tante cose di cui parlare e di cui mi farebbe piacere parlare con voi. 800 24 00 24 è il numero verde. Poi c'è lo sport chiacchierato, e allora da quel punto di vista, come detto, se ne sentono di tutti i colori, anche di incredibili. Non ci posso credere! You're unbelievable! Allora, mi piace sentire la vostra su queste 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Questa mattina leggo che il Real Madrid si butta su Bale. Tariffa 70 milioni di euro, manco fosse un giocatore da 50 gol a stagione. You're unbelievable. Ma la più incredibile è forse questa. Sempre trovata questa mattina, letta questa mattina anche da siti e da fonti autorevoli. Allora, Arshavin, ex, possiamo dire ex talento della Russia, acquistato a peso d'oro dall'Arsenal, questa stagione ha giocato 87 minuti in totale in Premier League. Sottolineano i siti come l'ultimo degli esordienti. Ebbene, ci sarebbe un'offerta per Arshavin che potrebbe polverizzare, fosse vera, e io non ci credo, ogni record: 2 milioni di euro al mese, 24 milioni di euro all'anno, molto più di Eto'o all'Anzi. Da chi arriva questa offerta? Sempre dall'est, dall'Azerbaigian, da una squadra che si chiama Kazar Lakaran, e spero di pronunciarlo correttamente perché non l'ho mai sentita nominare. 2 milioni al mese, 24 all'anno per Arshavin, anni 32, quest'anno minuti 87 in Premier League. You're unbelievable. E poi ce n'è un'altra che leggo da qualche parte, cioè Moratti sarebbe pronto, insomma, a pagare lo stipendio a stramaccioni da lui licenziato, purché il Genoa lo prenda. Vi prego, prendete questo ragazzo che è bravo, lo stipendio ve lo pago io. Non so se sia vera, se è vera è davvero. You're unbelievable. Già, incredibile. Allora, ieri l'abbiamo citato e l'abbiamo letto, oggi parliamo con lui, Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera. Ciao Fabio. Buongiorno a tutti, ciao. Parliamo da quest'ultima, unbelievable. Allora, è vero che Moratti sarebbe disposto a pagare il Genoa per prendersi stramaccioni? Guarda, non francamente. Io so solo che Moratti è sempre convinto che stramaccioni diventerà un grande allenatore, questo è sicuro. Poi non so se è disposto a pagargli l'ingaggio oppure no, insomma. Ecco, però so che lui sarebbe contento di vederlo collocato in un'altra società, proprio perché si possa valorizzare meglio di quanto sarebbe avvenuto con l'Inter, insomma, perché nonostante tutti i rapporti rimangono buoni, insomma, e Moratti l'ultima cosa che avrebbe voluto fare è stata quella di esonerare Stramaccioni. Senti, tu sai che io ti considero la fonte più autorevole per quanto riguarda l'Inter, e l'ho detto anche ieri, ho letto quanto avevi scritto sul Corriere della Sera. Tu sei un po' meno convinto di Moratti sulle capacità di Stramaccioni, l'hai scritto senza troppi giri di parole. Ma io, guarda, ero convinto che lui fosse un bravissimo allenatore. Devo dire che durante la stagione, forse anche non solo per colpa sua, ha sbagliato tante cose, e penso che quando uno perde 16 partite su 38 per qualsiasi motivo, qualche domanda se la dovrebbe fare, invece di meravigliarsi se poi il presidente ha cambiato idea, insomma. Però potenzialmente Stramaccioni credo che sia un bravo allenatore, insomma. Beh, penso che sia un bravo allenatore, però ha scritto che i suoi allenamenti erano pieni di vuoto. Sì, sì, nel caso specifico erano pieni di vuoto. Sì, sì, questo è sicuro. Questo riferito all'anno dell'Inter. Io penso che sulla carta Formazione sia uno che può fare bene, insomma, come allenatore. Mm. Quest'anno per una serie di motivi concomitanti, eccetera, all'Inter non ha fatto bene. Questo mi sembra evidente, insomma, ecco. Forse lui presume un po' troppo di se stesso, però credo che questa esperienza gli servirà anche per camminare un po' più vicino alla terra. Per camminare un po' più vicino alla terra e per forse diventare un bravo allenatore, come dice il talento, almeno a sentire Moratti. Senti Fabio, io ho una convinzione, guardando anche al futuro, io credo che l'Inter non possa rinascere senza spezzare ogni legame col passato, soprattutto i legami con il gruppo argentino. So che c'è qualcuno che dice ma forse confermerei questo, confermerei quello. Milito, Zanetti, capitano assoluto o Cambiasso, però io credo che non si possa ricostruire una squadra senza tagliare questi ponti con il passato. Forse sono eccessivamente duro in questa considerazione, però è il mio pensiero. No, questa direi che come pensiero di base è giusto, però il prossimo è un anno molto diverso da altre stagioni per l'Inter, perché c'è questa possibilità di lavorare bene durante la settimana, di lavorare con un tecnico molto preparato come Mazzarri, forse la miglior soluzione possibile, tenendo conto che altri tecnici non erano liberi, eccetera, e di preparare soltanto il campionato italiano. Ecco, io credo che partendo da questa considerazione bisogna fare tutta una serie di valutazioni anche su alcuni giocatori, anche perché risulterebbe che Mazzarri è convinto di poter rigenerare qualcuno proprio perché non c'è quest'anno l'impegno della Champions League oppure dell'Europa League, che è anche peggio, insomma. Mm. Secondo me con una partita alla settimana, a parte quando ci sarà la Coppa Italia, che però vabbè, non è una grande cosa, secondo me forse c'è la possibilità di sfruttare ancora l'esperienza di qualcuno, però in numero molto ridotto, insomma. Penso sostanzialmente a Cambiasso, ecco. Sì. Oltre che a Milito quando tornerà, insomma, ecco. Io mi fermerei a questi due, poi c'è il capitano da vedere, da verificare come torna, ma lui sarà il primo poi a fare i conti anche con l'età. Fabio, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico, poi ho altre due domande per te. Una sull'Inter di Mazzarri e una su un'ipotesi avanzata ieri da un nostro ascoltatore che aveva delle certezze in tasca provenendo da Londra. Traffico. Percepisco un pochino poco rispetto per questa maglia, per questi colori, per questi tifosi. Poi l'ho detto, magari mi cacciano, mi espatriano. Tutti convocati. Buongiorno mister, grazie della convocazione. 800240024, ogni giorno siete sempre tutti convocati. Intanto arriva la notizia secondo cui è stato rinviato a data da destinarsi o domenico mai più l'incontro tra Berlusconi ed Allegri, che dovrebbe essere decisivo per il futuro del allenatore o ex allenatore del Milan, per il Milan stesso, per la Roma, eccetera eccetera. Quindi non si terrà domani, ma o domenica o chissà, perché Berlusconi ha bisogno di prendere suono in Sardegna. Sempre Fabio Monti con noi, inviato del Corriere della Sera, per cui io ho ancora due domande. Fabio Monti, l'Inter di Mazzarri sulla carta, e leggo anche oggi, non mi sembra, a dirla tutta, una grandissima squadra. No, però secondo me intanto è presto, perché poi durante il mercato avvengono anche situazioni per cui che magari uno non si aspetta. Cito l'anno scorso lo scambio Cassano-Pazzini, che se l'avessimo immaginato 12 mesi fa era una cosa che non stava in piedi, poi a fine agosto invece è maturato. Secondo me c'è sempre da fare la considerazione che facevamo prima, cioè che l'Inter aveva soltanto da giocare il campionato, e il campionato la concorrenza potrebbe essere anche non strepitosa, insomma. Mi pare che dopo la stagione che è stata per l'Inter l'obiettivo sia rientrare in Champions League, insomma, quindi arrivare fra le prime tre. Secondo me, senza cercare grandissimi campioni, eccetera, ma facendo una squadra ragionata e adatta al campionato italiano, l'Inter potrebbe far bene avendo Mazzarri in panchina, che mi sembra una bella garanzia, perché non ha mai fallito in nessuna delle squadre dove è andato. Credo che abbia sempre ottenuto un po' più di quello sì, questo sì. Il potenziale di squadra in difesa, quindi questo certamente. Credo che, e poi comunque mi sembra veramente presto per avere delle... Quindi un Inter sulla falsa riga della Juventus di 2 anni fa? Sì, anche se forse la Juventus partiva, no, nonostante il 7° posto, partiva un po' più avanti. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa. Allora, Fabio Monti, ieri chiamo un ascoltatore ben informato a suo dire che tornava da Londra e dice: c'è una newcom a Londra che sta per prendere l'Inter, che vorrebbe prendere la maggioranza dell'Inter lasciando Moratti al comando del vapore ancora per un po', per poi portare tra un paio d'anni Mourinho, non solo i thailandesi, ma una, non so, un'entità strana per cui l'Inter potrebbe passare di mano lasciando Moratti al comando. Io voglio ancora vedere qualcuno che mette i soldi per lasciare comandare qualcun altro. Cosa ti risulta su questo fronte? No, a me risulta soltanto che ci sono delle trattative in corso perché forse un socio di minoranza dell'Inter per dare più forza alla società, quello che si è sempre detto e per il quale si continua a trattare. Di minoranza? Questo di minoranza, sì, questo mi risulta, insomma, ecco. Anche se mi rendo conto che il Presidente possa sentire una certa stanchezza perché sono stati 18 anni non proprio leggeri, non parlo soltanto dal punto di vista economico, insomma. Caduta la linea con Fabio Monti sulla nostra base, un po' horror, un po' thriller, no, perché io a questa storia di... con tutto il rispetto per l'ascoltatore che ha chiamato ieri e se vuole mi può chiamare ancora, cioè, tornato Fabio, che sì, così, finisce, così finisce il discorso, no, dicevi? No, dicevo che la responsabilità è molto forte, ma e ci può essere anche la tentazione di lasciare, però credo che per il Presidente non sarebbe un passo facile. Poi sono cose talmente complicate che in questo momento mi sembra difficile da ipotizzare, però bisogna sempre tenere presente che i lettori e gli ascoltatori ogni tanto ci azzeccano, insomma. Io ho molto rispetto per queste cose. No, anch'io, però ti ripeto, voglio ancora vedere qualcuno in qualsiasi sport, che in qualsiasi ambito della vita economica, che mette i soldi per lasciare al comando qualcun altro. È questo che mi lascia molto perplesso, Fabio. No, anche perché Moratti, insomma, quindi sarebbe la sua Inter, insomma, quindi questo è un po' bizzarro. E poi credo che nemmeno lui interesserebbe una soluzione del genere. Grazie Fabio, buon grazie lavoro. A voi. Ciao Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera. Voglio sentire la vostra voce, 800 24 00 24, il numero verde. Poi torneremo a parlare di basket. A questo proposito c'è, insomma, notizia della notte, il 2-2 tra Indiana e Miami, quindi dopo che San Antonio si è qualificata per la finale dell'NBA, adesso tutti a fare il tifo per gli underdog di Miami. Almeno io faccio il tifo per gli underdog di Miami, non so se voi preferite LeBron James. Poi parleremo anche del nostro basket, i playoff italiani per una volta mi sembrano addirittura più interessanti di quelli dell'NBA. Ovviamente parleremo di calcio con voi e su tutti gli argomenti che volete, comprese le voci di ieri secondo cui a dire di Bronzetti Cavani resterà al Napoli e Higuain è al 70% in bianconero della Juventus. Io non credo né a una cosa né all'altra. 800 24 00 24. C'è chi scrive: vorrei chiederti se Allegri andrà alla Roma. Io credo che Allegri andrà alla Roma. Come vi ho detto prima, le notizie di oggi, ieri era previsto l'incontro decisivo tra Allegri, Galliani, Berlusconi, eccetera. Tutto saltato, forse si terrà domenica o forse mai più. Andrea Modena, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire solo per una riflessione che avete già fatto in qualche trasmissione precedente. Rapporto Galliani-Allegri. Secondo me Galliani è stato un ottimo dirigente nei periodi di vacche, chiamiamolo così, di vacche grasse. Ora anche lui dovrebbe chiudersi nel suo ufficio, fare un'ora di riflessione e pensare che l'epoca dei Van Basten, dei Rijkaard e dei Gullit non ci sono più, i soldi sono sempre meno, il presidente ce ne mette sempre meno e quindi lui era un dirigente da vacche grasse. Il Milan deve cercare anche un dirigente per periodi di vacche magre, perché c'è qualcuno che ha dimostrato, vedi la Juve, che si può fare e si può vincere spendendo meno del Milan. Quindi questa è la riflessione, Andrea, che dico, non è solo l'allenatore, ne fa un'altra, ne fa, Andrea, ne fa un'altra insieme a me? Mi dica. Allora, lei ha parlato di Gullit, Rijkaard e Van Basten, che sono, non dico preistoria, ma sono cose di molti anni fa. Era il Milan che legava i tifosi, okay, va bene, allo stadio e tutto il resto. Sì, sono d'accordo, però Galliani è stato anche capace di costruire un castello di carte che in epoche di vacche magre ha portato al Milan Ibrahimovic spendendo... Quattro soldi è offensivo per tutti noi, però spendendo davvero poco. È anche stato il dirigente che è riuscito a costruire un altro castello di carte l'anno scorso, per cui Pato, che è finito in Brasile e di cui si hanno notizie sporadiche e saltuarie, poteva andare al Paris Saint-Germain per un sacco di soldi e portare al Milan Tevez. Poi è arrivato il Niet da parte della famiglia presidenziale. Quindi mi sembra che anche in epoca di vacche magre più recenti, Galliani si è riuscito a fare qualcosa di, a costruire comunque dal punto di vista del mercato e delle strategie, anche dal punto di vista economico, qualcosa di importante. Perfetto. No? L'ultima mia domanda rimane no, questo. Come mai? Risponda a me, lei è d'accordo o no? Sì, sono d'accordo, però faccio un'altra riflessione e quindi lo chiedo anche a lei. Come mai il monte ingaggi del Milan lo cominciano a diminuire adesso e alla Juventus? È vero che è stata in via, è stata ricostruita la squadra, però c'è un monte ingaggi che è molto più basso, sono andati più avanti di noi in Champions League e hanno dimostrato che non sempre spendendo 12 milioni di euro per comprare Ibrahimovic si vince, visto lo scudetto che è stato perso l'anno scorso. Quindi anche su questo bisognerebbe fare delle riflessioni. Questa è una riflessione corretta. Che abbiamo, oggi che, il monte ingaggi del Milan è il più alto della Serie A anche rispetto ai risultati. Il Milan ha giocato un calcio pessimo ultimamente, è arrivato a fine stagione senza energie quando lo Juventus ne aveva ancora. Ma quindi colpa di chi? Di Galliani, di Allegri o di chi? Tutti e due. Quando Berlusconi, su questo ne devo dare atto, ha aperto una riflessione che poi dopo dicano i giornali che Adriano Galliani è d'accordo con Berlusconi, non ci sono mai state riflessioni. Secondo me la dirigenza in quest'anno è stata messa in discussione. Cosa voglio dire? Una piazza pulita tra allenatore e dirigenti, forse il Berlusconi padre ci ha anche pensato. Su questo poi mi risulta che in effetti i rapporti siano stati, non siano mai stati così complicati come in questo periodo. Allora, da una parte Galliani, la squadra che è sempre stata con Allegri, l'abbiamo sentito da praticamente tutti i giocatori, una tifoseria, una curva che sta da quella parte, Berlusconi che è quello che mette il grano, che sta dall'altra, quindi non bisogna essere maliziosi per leggere questo tipo di situazione. Poi lei ha ragione quando dice il Milan è la squadra più costosa dal punto di vista del monte ingaggi della Serie A e si è beccata 15 punti dalla Juventus, e questo credo sia una riflessione che Berlusconi ha fatto. Paolo Pordenone, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in Tutti Convocati su ogni argomento sportivo, ve lo ricordo. Sì, buongiorno Carlo, volevo dire una cosa a riguardo dell'Udinese, no? Sì. Allora, ha tre squadre. Ha gli ingaggi tra i più bassi di Serie A, giocatori di medio-basso livello, ad eccezione di Natale. Riesce sempre a fare meglio di squadre grosse. Mi faccio finire un attimo, scusi. Sì. Di squadre grosse e non se ne parla. Quando c'era il Parma di Tanzi, se ne parlava sempre. Poi parliamo... Ecco, l'ultima cosa, fair play, noi lo rispettiamo e non siamo considerati. Squadre come la Lazio con 25 anni di debiti spendono soldi e sono sempre super considerate da voi giornalisti. Per me è una cosa stranissima in Italia che non si parla di Udinese. Ma di Udinese ne parla lei, io ne parlo sempre volentieri, quindi non è così vero. Dell'Udinese cosa si può dire se non che la politica dell'Udinese è chiara a tutti? Non sono d'accordo sul fatto che ci sia solo Di Natale come giocatore di livello nell'Udinese, perché Muriel sta emergendo e molti grandi club se ne sono accorti, perché soltanto l'anno scorso l'Udinese ha ceduto Asamoah e Isla, che sono, secondo me sono entrambi due eccellenti giocatori alla Juventus. La politica dell'Udinese è questa, cioè quella di una grande attività di scouting, di valorizzazione dei giovani a prescindere dalla loro provenienza, di cessione dei pezzi migliori senza mai abbassare le braghe dal punto di vista economico, e l'abbiamo visto con la vicenda Hiller, ma anche con la vicenda Sanchez, e di conseguire comunque risultati che sono straordinari. Ma mi sembra che la politica dell'Udinese sia chiara, sia scoperta, quindi basta poi leggere la classifica e basta poi leggere i bilanci per capire qual è il potenziale dell'Udinese. Ma cosa più importante, mi risulta che l'Udinese sia l'unica società in Italia, o una delle poche di Serie A, ad avere un serio progetto per quanto riguarda il futuro e per quanto riguarda lo stadio. 800240024, vi aspetto qui dopo la borsa. Le è mai venuta la tentazione di cambiare Allegri, e si vede ancora Allegri nel futuro del Milan, anche per l'anno prossimo? Il presidente del Milan deve dire sempre la verità. Passiamo alla prossima domanda. Tutti convocati. Eccoci tornati. 800240024, il numero verde. Vi parlavo prima della notizia della notte, c'è poi anche questa di Cruyff, secondo cui, di un'ineleganza inaudita. A proposito del Barcellona, Johan Cruyff dice: Villanova non ha né la forza né l'esperienza di Guardiola. Mi sarei aspettato che in questi mesi richiamassero Pep o Rijkaard, ha un problema enorme che è la sua malattia, non ha tutte le forze, e quindi mi auguro che venga sostituito. Fate voi. Però adesso voglio parlare di un po' di basket, perché in questi giorni mi sembra il caso, tra playoff NBA e playoff italiani, che una volta tanto sono ancora più divertenti di quanto capita dall'altra parte dell'oceano, dove mi sembra tutto scritto, al di là di questa parità 2-2 tra la meravigliosa e ruvida Indiana e la Miami strafavorita di LeBron James. Dall'altra parte San Antonio è già qualificata per la finale. In Italia non si sa, anche perché ieri Varese ha battuto Siena. Allora sentiamo cosa ha detto Polonara, uno dei giovani emergenti, dopo la partita. Siamo entrati in campo con più voglia di vincere, più intensi, con più aggressività, e abbiamo imposto, diciamo, noi il ritmo di partita. Sull'uno pari è un'altra storia. Andiamo a Siena più fiduciosi, consapevoli del fatto che possiamo vincere tranquillamente. Sì, è una buonissima squadra, però diciamo che anche noi non siamo da meno, non sarà un caso che siamo primi della prima. Questo era Polonara, alla faccia di chi non crede nell'Italia azzurra dei canestri, uno dei giocatori emergenti in questa stagione. Mi sembra che questa sia quella dei giocatori italiani emergenti in questa stagione, da Datome a Polonara, Hackett, che ieri sera ha giocato un'altra straordinaria partita da protagonista. Mi sembra che questa sia la notizia che esce dalla stagione dei canestri. Però io voglio sapere cosa ne pensa l'allenatore che ha vinto la regular season e che guida Varese, cioè Frank Vitucci. Buongiorno. Ciao. Coach, buongiorno. Ciao a tutti voi, buongiorno. Sei d'accordo con quanto dice il tuo giocatore? Sicuramente, visto che riallaccio quello che stai dicendo prima, che ci sono giocatori italiani che quest'anno nei playoff sono protagonisti per le proprie squadre, non sono solo figure di contorno, e questo non può che far bene un po' tutto il movimento, chiaramente anche in funzione della nazionale maggiore, perché questi che hai citato te, dai miei Polonara, di Nicolau, a Hackett, a Radori, da Tome ovviamente, insomma sono giocatori che hanno un peso specifico che forse negli anni precedenti non avevano le proprie squadre, quindi questo è un dato sicuramente confortante. Questo tipo di livello di partite non può che far loro bene per misurarsi

E intanto bisogna lasciare un pochino anche i giocatori abbiano questo tipo di... Facciamo così, rischio calcolato, di... Rischio calcolato. Facciamo un rischio calcolato. Lo diciamo adesso col senno di poi, dai. Però siccome chi vince ha ragione, allora è andata dritta così, dai. Bravo. È andata bene così. Senti, un'ultimissima cosa che è una mia curiosità. Hackett da avversario, secondo me c'è un equivoco su Hackett, cioè tutti, anche Recalcati lo vedeva playmaker. Io dicevo, non ha i tempi del playmaker, non ha una continuità clamorosa nel tiro da fuori, forse non ha il senso del gioco, ma da guastatore mi sembra un giocatore straordinario. Tu da avversario come lo vedi? Ma è un giocatore sicuramente totale, nel senso che può ricoprire più ruoli, può difendere su più avversari, fare più cose, perché sa penetrare, sa giocare in post basso, sì. Comunque bisogna rispettarlo, insomma, un giocatore che magari quando è tornato dal college si pensava dovesse fare a tutti i costi solo il playmaker. Poi invece mi sembra che io so qualcosa, perché a Treviso l'ho avuto io i primi mesi, quando invece poi la strada giusta forse è questa qui, come sta facendo adesso, che ricopre più ruoli quando serve fare il playmaker, quando serve fare la guardia, fare la piccola, insomma la multidimensionalità, esatto. Penso che sia il suo pregio migliore, assolutamente. È un giocatore che in questi anni effettivamente è cresciuto molto. Grazie coach, in bocca al lupo, ci sentiamo. Grazie a voi. Grazie a Frank Vitucci. Ciao. Grazie a Frank Vitucci, coach di Varese, che era pareggiato il conto con Siena. Ricordo che questa sera si gioca la terza gara al Pianella tra Cantù e Roma, con Roma sul 2-0. 800 24 00 24 invece è il vostro numero verde. Vedo già Emanuele, Marco e Gianluca. Dopo il traffico parliamo con loro. Sarà un lungo pomeriggio di passione su Radio 24, eh? Tutti convocati. Siamo tornati. C'è chi mi scrive: senza nessuna ragione, che palle con sto basket, non lo segue quasi nessuno. Non mi pare sia così, a giudicare anche dal numero degli ascoltatori che stanno seguendo i playoff, invece delle chiacchiere di mercato a proposito, che pure sono divertenti, nulla in contrario. Nella rubrica It's Unbelievable io metterei anche il Napoli che rilancia 7 milioni l'anno per Cavani, perché sbilancerebbe tutti gli equilibri di ingaggi del Napoli, e non credo che De Laurentiis abbia voglia di fare questo. E metterei anche Zamparini, che pensa a Gattuso come allenatore del Palermo. Si vede che è l'epoca degli ex giocatori che sono tali, o che sono ancora giocatori come Seedorf, e che sono già in procinto di sedere su una panchina importante, quella del Milan o anche quella del Palermo. 800 24 00 24, numero verde. Emanuele Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo solamente fare due incisi. Uno, ricollegandomi all'ascoltatore di prima che parlava del mercato della Juve, del budget, eccetera. La Juve, se non vinceva con lo scudetto l'anno scorso, dopo gli investimenti di Diego, Krasic, eccetera, eccetera, e non faceva la Champions, era un disastro completamente. Quindi voglio dire, le cose vanno viste anno per anno, ma al di là di quello anche perché lì, Emanuele, mi perdoni, ma siamo nel campo dell'ipotetico, no? Di fatto sì, lo scudetto l'ha vinto l'anno scorso e l'ha vinto anche quest'anno. Con il gol di Muntari, ok, a parte quello, è un dato consegnato al mercato. D'accordo. E un'altra cosa, dato che il basket, come dice lei, invece piace molto a tanti, mi ricollego e le voglio fare una domanda. Prego. Trent Diner, che oggi può essere convocato in nazionale, ottimo giocatore, però chiuderebbe spazio, secondo me, a un Andrea Cinciarini che negli ultimi 2 anni è diventato una cosa fenomenale nel campionato italiano. Rimbalzi, assist, braccia lunghe, sa giocare da play, conosco da guardia. Conosco bene Andrea. Conosco bene anche come giocatore, ma perché non tutti e due? Sì, però si toglierebbe spazio allora a un De Nicolau, anche perché nei miei 12 le 5 guardie sarebbero Cinciarini, De Nicolau, Belinelli, Hackett e Aradori. Quindi guardi, benvengano i problemi di abbondanza, no? Dopo tante lacrime che abbiamo sentito ieri, ancora mi ha scritto un ascoltatore: non siamo frignoni, però non vediamo Marcello, mi ha scritto, anzi vi prego di scrivere alla mail tutticonvocati@radio24.it Ebbene, dopo io ho detto tanti frignoni, mentre a me sembra che non siamo messi così male dal punto di vista della nazionale dei giocatori italiani. Ben venga anche Travis Dinner, che ieri ha preso la cittadinanza italiana e che quindi è eleggibile per la nazionale. Non vedrei perché non sfruttare anche queste risorse con gli europei, un europeo importantissimo alle porte. E non, una cosa non esclude l'altra. Cinciarini molto cresciuto, ha giocato l'anno scorso a Cantù, quest'anno molto bene a Montegranaro, dunque perché non sfruttare tutte le risorse disponibili visto che le abbiamo, e ben vengano, ripeto, i problemi di abbondanza. Marco Milano, buongiorno. Ah, pronto, eccomi, grazie per la convocazione. Grazie a te. Vabbè, grazie. Innanzitutto, vabbè, volevo ricordare, io vabbè, sono tipo di interista, però ricordo la triste pagina dell'Isel, 29 maggio del 1984, e mi dispiace molto, cioè proprio la triste pagina, purtroppo, così. Quella cosa, quanti anni hai? 51. Bene, siamo quasi coetanei, insomma, penso che tutte e due fossimo davanti alla televisione, non so, io quella sera ero ragazzino e rimasi impressionato, mi ricordo che andai a letto senza neanche guardare la partita e il giorno dopo da ragazzino mi svegliai con un senso di tristezza, di disgusto, di delusione che ricordo ancora e sento ancora adesso. Quindi ti ringrazio per aver ricordato quella pagina. Io non ho grandi colori, non sono juventino, però è una di quelle ferite sportive che restano dentro, e ti ringrazio per averla ricordata. Sì, sì, anche io che sono tipo interista ho avuto le stesse sensazioni che hai provato vedi, tu. Vedi. E poi una domanda sull'Inter, volevo dire, mi ha dato via Stramaccioni, però in realtà, cioè, io penso Branca, vero? Perché Moratti, visto che adesso sta facendo un po' una spending review, non prende, non so, gente che lavora con l'Udinese, che sanno valorizzare, scelgono i giocatori giusti e valorizzano anche i... ho capito, Marco, talenti, però quella dell'organizzazione non è un nome, ma è un... quella dell'Udinese non è un nome, ma un'organizzazione, volevo dire, quindi è un'organizzazione da costruire. L'Inter da tempo segue altre politiche, è come dire, perché non facciamo come il Barcellona che ha la cantera e che porta i giocatori in prima squadra. Non si tratta di, in questo caso, di spendere soldi e di acquistare un dirigente, si tratta di costruire un'organizzazione per la quale serve, io credo, molto tempo e molta competenza. Credo che la via dell'Inter sia, ma dell'Inter e delle altre squadre sia un'altra. L'Udinese è un caso unico nel calcio italiano, e poi ci sono quelli che dicono non ne parlate mai, ne parliamo continuamente, ma è un segreto di Pulcinella, no? L'Udinese ha un'organizzazione di scouting che nessuno ha in Italia, ha lo spazio, il tempo, la pazienza di valorizzare i giovani, ha questa politica, li vende, fa soldi e dunque si trova ad avere la botte piena e la moglie ubriaca. Gianluca Pesaro. Sì, convocato e presente, ciao. Presente, ciao Gianluca. Ciao. Ascolta, un ascoltatore di prima, quando parlava dell'Udinese, mi sembra di aver capito che accennasse al fatto che la Lazio fosse una squadra spendacciona, ho capito male? Sinceramente non ricordo, ha detto perché parlate di tutte le altre, compresa la Lazio, non dell'Udinese, non mi sembra che abbia detto, non mi sembra che abbia detto qualcosa del genere. No, ha detto che la Lazio ha avuto, ma anni fa, e non è un segreto, e lo sai anche tu, ha avuto il beneficio di poter spalmare un grosso debito fiscale in più anni, e questo beneficio è indiscutibile, no? Aveva comunque, voglio dire, quindi non è un qualcosa fatto ad hoc per la Lazio, ma detto questo, tutti, non so se sapete retroscena, ma la corsa di Lodito e Motorino all'ultimo momento per depositare e salvare la Lazio, depositare il contratto, è una cosa che ha raccontato per radio, che proprio a Radio 24 era una cosa bellissima, questo per dire. Però la Lazio non credo che sia spendacciona, presidente è soprannominato a Roma, lo sanno tutti, Lodirchio, quindi che spenda tanto proprio. Anzi, dovrebbe sfoltire e magari investire meglio. Sì, questo anche secondo me. Che non inserisco oltre della partita di domenica, non dico altro. No, bravo, bravo, facciamo così, anche perché ieri Gian Totti ha detto la Lazio cos'è? Niente, intervista a France Football, poi corretta dall'ufficio stampa della Roma, no, niente voleva dire che non voleva parlare della Lazio, tutto qua. Vincenzo Napoli, poi chiudiamo. Vincenzo, buongiorno. Salve, buongiorno. Niente, grazie per la convocazione. A te. Io volevo allacciarmi al discorso per quanto riguarda il Napoli, sì? per l'allenatore che è stato, diciamo, ingaggiato, e che in molti giornalisti e molte altre emittenti questo allenatore in Italia ha fallito all'Inter. Forse molti non dimenticano che andando all'Inter dopo il triplete e dopo ad avere quei giocatori, perché da informazioni che so io, questa persona, che può essere molto tenera nel guardarla, è una persona molto decisa, cioè una persona che, tra virgolette, non è che guarda intanto molto in faccia i giocatori. No, Vincenzo, ne abbiamo parlato ieri e ne riparleremo volentieri nei prossimi giorni. Io mi limito a tagliare la testa al toro dicendo che secondo me è stata una grande idea di De Laurentiis quella di ingaggiare Rafa Benitez come allenatore. È un duro, è uno che è in grado di rompere con il passato, perché quando c'è un ciclo di questo tipo, secondo me l'ideale è costruire qualcosa di nuovo, e dunque è una grande idea per me quella dell'allenatore spagnolo come nuovo tecnico del Napoli. Ragazzi, vi saluto, ci sentiamo domani alle 2. Franco Piantini, direttore di questo programma, Fabio Cantadone in regia, ciao a tutti.